sotto borghi dentro la città. Un suono vibra, arriva fino a Radio One. Alza il volume quando c'è brancato. Chiariti forte, niente programmato. Rock Revolution, la radio trema. La musica rivoluziona il sistema. La radio che suona i successi di un'era. Radio One, Rock Revolution. La città trema. La musica rivoluziona il sistema. La radio che suona i successi di un'era. Rock and roll, Sabu, Rock Revolution. Sgomito, la mia anima trema. Radio One, Rock Revolution. Rock Revolution. Rock Revolution. Radio One. Ben trovate questa nuova puntata di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio. Io sono Filippo Brancato e quest'oggi parleremo di rock targato Italia. Nel dettaglio parleremo di un grandissimo artista, ormai diventato un'icona della musica rock in Italia. Parliamo di Vasco Rossi. Dunque, Vasco nasce a Zocca, paesino tra Modena e Bologna, il 7 febbraio del 1952. Il nome gli viene dato dal padre Giovanni Carlo, di professione camionista, in omaggio a un omonimo compagno di prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Trascorre un'infanzia serena, circondato dall'affetto della sua famiglia, mostrando un carattere molto timido. Fin da bambino, su decisione della madre Novella Corsi, casalinga appassionata di musica, viene iscritto a scuola di canto dal maestro Bononcini ed inizia ad appassionarsi al mondo della musica. A 13 anni vince l'Usignolo d'Oro, una manifestazione canora modenese nata per contrastare lo Zecchino d'Oro, mentre a 14 anni entra a far parte del suo primo gruppo musicale chiamato Killer, nome successivamente trasformato in una più rassicurante Little Boys. Del gruppo fa parte anche Marco Gherardi, che più volte sarà compagno di avventura di Vasco. Nel 1967, ottenuta la licenza media, la famiglia lo iscrive all'Istituto dei Salesiani di San Giuseppe a Modena per conseguire il diploma. L'esperienza in collegio si rivela traumatica. I tutori, infatti, si mostrano molto severi e Vasco inizia ad avere un carattere ribelle. È un periodo che segnerà profondamente il carattere di Vasco Rossi. Vasco vive a Bologna, in un periodo di particolare fermento, quando divampa la contestazione studentesca e la città è particolarmente coinvolta. Appoggia le posizioni anarchiche ed è molto affascinato dal mondo del teatro, tant'è che matura il sogno di iscriversi al DAMS per frequentare il corso di teatro alternativo, ma il padre non approva l'idea, pertanto nell'autunno del 1972 si vede costretto ad iscriversi ad Economia e Commercio a Bologna. Pochi mesi prima aveva aperto insieme a Marco Gherardi, un suo amico d'infanzia, un piccolo locale, il Punto Club, nei pressi di Zocca, che più tardi diventerà una vera e propria discoteca. In questo primo periodo viene utilizzato come base per organizzare feste ed eventi e Vasco si spende per l'organizzazione con discreti risultati. Ascoltiamo la prima canzone di quest'oggi in playlist di Vasco Rossi, si intitola Jenny. Rock Revolution Story. Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca, Jenny vuole dormire, Jenny è stanca. Gente a guardarsi stupita, a cercare di capire cosa. Jenny non sente più niente, non sente le voci che il vento le porta. Jenny è stanca, Jenny vuole. Tracy si trasferisce per andare a vivere presso una casa in affitto sempre a Bologna insieme a due amici e decide di prendere seriamente l'impegno universitario. Tuttavia, dopo un inizio si lascia sedurre dalla turbolenza della Bologna di quegli anni. Si iscrive al Manifesto, continuando però a restare sempre piuttosto ai margini della lotta politica. Frequenta poi il Teatro Evento di Bologna, per il quale firmerà qualche regia e qualche presenza come attore. E infine si fidanza con Paola Panzacchi, una convinta femminista, iniziando una storia d'amore molto difficile, da cui uscirà con le ossa rotte, che lo porterà ad avere posizioni sempre più maschiliste. Inoltre, amplia notevolmente la sua cultura musicale. Oltre agli italiani Lucio Battisti, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, ascolta molto rock anglosassone, soprattutto i Rolling Stones. Nel 1974 abbandona definitivamente economia e commercio e si iscrive a pedagogia, più affine alle sue inclinazioni, tanto che abbandonerà gli studi a solo 8 esami dalla laurea. L'anno successivo si trasferisce a Modena per risparmiare sull'affitto, dividendo l'appartamento con altri amici. Arriviamo al 1975, è un anno storico per la sua formazione. Convinto dell'idea dell'amico Marco Gherardi, fonda Punto Radio, una radio libera sul modello delle centinaia che nascevano in quegli anni in Italia. Diventerà famoso un programma da lui condotto, Il Muretto, in cui con un contatto attivo con gli ascoltatori svilupperà tematiche sulla vita e sulla filosofia che si riveleranno importanti per il suo futuro discografico. L'esperienza della radio è decisiva per la carriera di Vasco Rossi. Prima di tutto gli dà la possibilità di maturare come showman, visto che Rossi sarà uno dei principali DJ sia dei programmi radiofonici sia delle serate speciali che la radio organizzerà presso le principali discoteche dell'Emilia Romagna. E in secondo luogo gli darà l'opportunità di conoscere una serie di persone fondamentali nella sua futura carriera, come Riccardo Bellei, Gaetano Curreri, Maurizio Solieri, Massimo Riva, allora giovanissimo, e anche Red Ronnie, che ai tempi lavorava come lui per un'altra emittente libera di Bologna, la BBC. È proprio nelle serate evento organizzate nei locali degli emiliani da Vasco Rossi che per la prima volta imbraccia la chitarra e canta al pubblico alcune canzoni, comprese alcune scritte da lui stesso. Ascoltiamo Silvia. Silvia riposa dentro la stanza con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino che fra non molto la sveglierà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il trucco, se no la mamma brontolerà. Silvia, fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi, fai tardi lo stesso. E poi la smetti con tutto quel trucco, che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente, oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma crescerà. Silvia, fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi, fai tardi lo stesso. E poi la smetti con tutto quel trucco, che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente, oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma crescerà. Silvia ora corre oltre lo specchio, dimenticando che sono le 8, e trova mille fantasie che non ha fascino più andar via. Abbiamo ascoltato Silvia, fantastica canzone di Vasco Rossi, ospite di questa puntata di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio. Dunque, sotto la spinta dei suoi amici, tra cui Gaetano Curreri, co-leader degli Stadio, incide nel 1977 il suo primo 45 giri, Jenny Silvia, che abbiamo ascoltato da poco. L'anno successivo esce invece il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone, pubblicato a tiratura nazionale ma praticamente venduto solo in Emilia Romagna. Il suo secondo album viene venduto nel 1979 con il titolo Non siamo mica gli americani. Il disco ottiene più successo rispetto al precedente, anche se in fatto di vendite non è niente eclatante. Con gli anni verrà però sempre più rivalutato, diventando uno dei preferiti tra i fan del cantante, grazie anche soprattutto alla canzone Alba Chiara, che in futuro diventerà uno dei suoi maggiori successi e pezzo conclusivo di gran parte dei suoi concerti. La prima apparizione di Rossi in televisione è datata 10 gennaio 1979, quando partecipa come concorrente alla trasmissione 10 Hertz condotta da Gianni Morandi. Alla fine del programma Vasco canta La Strega, la diva del sabato sera. Questa chicca televisiva è stata ritirata fuori a 30 anni di distanza dalla storia Siamo Noi, nello speciale Solo Vasco di Caterina Stagno del novembre del 2008, e ha riscosso nuovamente un grandissimo successo. Arriviamo al 1980, esce il terzo album Colpa d'Alfredo. L'album però non ottiene molto successo, questo a causa della censura delle radio della canzone che porta il titolo dell'album, perché è ritenuta volgare ed offensiva in alcune parti del testo, bloccando in qualche modo la promozione del disco. È il quarto album che inizia ad arrivare il successo. Siamo Solo Noi viene pubblicato nel 1981 e tuttora viene considerato uno dei migliori lavori del cantante. La canzone che dà il titolo all'album verrà più volte identificata come un vero e proprio inno generazionale, tutt'oggi attuale per i suoi fans. Ascoltiamo adesso invece Alba Chiara. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti smetti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare. Per farti guardare, e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Rock Revolution Story su Radio One. Abbiamo ascoltato la fantastica Alba Chiara su Radio One. Oggi ripercorriamo la storia, la vita e le opere di Vasco Rossi. Bene, la popolarità di Vasco, che inizia a farsi conoscere anche a livello nazionale, cresce in seguito a una sua esibizione dal vivo durante la nota trasmissione televisiva Domenica In. In questa occasione canta la canzone Sensazioni Forti e la sua esibizione viene ampiamente criticata dal giornalista Nantas Salvaggio, che in un suo articolo sul settimanale Oggi si scaglia contro il cantante e contro la RAI, colpevole a modo suo di ospitare nel suo più popolare programma della domenica un simile esempio di ebete cattivo e drogato. Il rocker ed il suo staff ovviamente protestano nei confronti del giornalista, ma l'inconveniente nei fatti aumenta il nascente mito del Blasco, soprannome nato d'altronde in quel periodo. L'esperienza che cambia radicalmente la carriera di Vasco Rossi è la partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante il Festival della Canzone Italiana non appartenga all'orizzonte artistico del rocker, Vasco e il suo entourage decidono di sfruttare la crescente popolarità del cantante facendolo partecipare all'importante vetrina offerta dalla RAI, suscitando anche qualche malumore tra i fan dell'epoca. Così, nel 1982 Vasco partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Vado al Massimo. La performance del rocker di quell'anno fa scalpore. Vasco abbandona il palco con il microfono nella tasca della giacca, che è collegato col filo dell'amplificatore, cade creando panico tra il pubblico in sala e tra i conduttori dello show TV. Fu lo scalpore che proprio il rocker di Zocca voleva creare in una manifestazione a suo tempo forse troppo austera per distinguersi dagli altri partecipanti. Nell'aprile dello stesso anno esce invece l'album omonimo, che resterà in classifica per ben 16 settimane. L'anno seguente poi Vasco si presenta di nuovo a Sanremo con Vita Spericolata. La canzone diventerà uno dei classici della musica italiana, così come siamo solo noi, e raggiunse lo stesso anno il sesto posto nella classifica dei 45 giri. Entra inoltre in finale, ma si classificherà al penultimo posto nella graduatoria del festival. Ascoltiamo per l'appunto Vado al Massimo. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con gonfie vene, a gonfie vene, a gonfie vene. Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire. Viva Bollicine è il sesto album in 6 anni, quello che consacra definitivamente Vasco Rossi a icona del rock italiano. Resta in classifica per ben 35 settimane e si piazza come 5° album più venduto dell'anno. L'ironica canzone Bollicine, farcita di slogan e frasi ad effetto con chiaro riferimento ovvio all'uso della cocaina, vince il Festival Bar del 1983 e il tour per promuovere l'album è un trionfo. È sicuramente uno dei periodi di massimo successo dal punto di vista musicale, ma non dal punto di vista umano. Infatti, secondo alcuni biografi, in quel periodo Vasco sta veramente andando al massimo. È farmacodipendente, vive come se fosse sempre sul palco, non dorme per giorni interi mentre continua ad assumere anfetamina e Lexotan, tanto da costringere il manager Guido Elmi ad annullare vari concerti. All'inizio del 1984 esce la prima raccolta live, va bene così, che resterà in classifica 33 settimane, di cui 8 al primo posto. Ma il 20 aprile dello stesso anno il rocker viene fermato in una discoteca nei pressi di Bologna ed arrestato. Dopo una perquisizione in un casolare di Casalecchio dove abita insieme ad altri componenti della band, Rossi consegna spontaneamente 26 grammi di cocaina ai carabinieri. Trascorre 22 giorni di prigione, di cui 5 in totale isolamento, presso il carcere di Rocca Costanza a Pesaro, con l'accusa di detenzione di cocaina e spaccio non a scopo di lucro. Nei giorni di detenzione riesce a liberarsi dalle anfetamine, nonostante la sua situazione psicofisica rimanga comunque piuttosto precaria. Del panorama musicale italiano soltanto Fabrizio De André e Dori Ghezzi danno pieno sostegno al cantante visitandolo in carcere. Il 12 maggio Rossi ottiene finalmente poi la libertà provvisoria. Il processo lo scagiona dall'accusa di spaccio, ma lo condanna a 2 anni e 8 mesi con la condizionale per detenzione di sostanze stupefacenti. Bollicine. Piccolo spazio pubblicità. Piccolo spazio pubblicità. Thank you. sa più e mangia le pere. Tutte quelle medicine. Io la Coca-Cola me la porto a scuola. Coca-Cola chi? Coca-Cola, Coca casa e chiesa. Scuola. Tutte quelle bollicine. Dopo l'esperienza in carcere, Vasco Rossi pubblica l'album Cosa succede in città. Siamo nel 1985. Considerato, secondo certi aspetti, l'album della rinascita, sebbene contenga canzoni storiche poi divenute pilastri delle composizioni di Vasco. Secondo la critica, infatti, l'album è tecnicamente perfetto, ma per i testi ed i contenuti viene considerato un album piuttosto fiacco, anche a causa delle vicende che l'hanno preceduto, tanto che, secondo alcune persone vicine a Rossi, l'album non ha soddisfatto completamente né Vasco né Elmi. L'anno seguente diventa padre per la prima volta e per 2 anni sparisce completamente dalla circolazione. Qualcuno parla di esaurimento nervoso, ma è un periodo in cui Vasco ricerca se stesso e rivede vecchi amici d'infanzia. Nel 1987 torna prepotentemente sulla scena pubblicando C'è chi dice no, definito da molti giornali dell'epoca un capolavoro che resterà in classifica per ben 38 settimane, di cui 12 in testa. Il successo è tale che perfino Celentano lo vuole ospitare in Rai. Lui inizialmente accetta, salvo poi cambiare idea il giorno prima della trasmissione, facendo ovviamente infuriare i vertici dell'emittente televisiva, che minacciano di bandirlo per sempre da ogni trasmissione. Ma Rossi a questo punto della sua carriera può ampiamente permetterselo, tanto che il sempre crescente successo di spettatori costringe il cantante ad abbandonare i palazzetti per orientarsi verso spazi più ampi. Inizia l'epoca degli stadi e inizia adesso C'è chi dice no. C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. You're not. Ripercorrendo la biografia di Vasco Rossi, arriviamo al 1 luglio 1988. Viene nuovamente arrestato mentre da solo a bordo della sua BMW 750 procede zigzando sulla A14 a bordo con un grammo di cocaina, uno sfollagente e una pistola lanciagas. Viene prontamente rilasciato tra le guardie carcerarie e i fan che gli chiedono abbracci e autografi. Nel 1989, prima dell'uscita dell'album Liberi Liberi, realizzato per conto dell'EMI, Rossi rompe definitivamente con Guido Elmi e la Steve Rogers Band, trovandosi praticamente da solo con Maurizio Longo. Parte comunque il Liberi Liberi Tour, senza Solieri e Riva, il cui grande successo porta alla pubblicazione dell'album live Fronte del Palco del 1990. Il 6 dicembre 1989 Rossi viene condannato ad un'ammenda di 2.800.000 lire in seguito all'infelice episodio del 1984. L'anno successivo vengono organizzati in rapida successione 10 e 14 luglio due concerti rispettivamente negli stadi di San Siro a Milano e Flaminio a Roma, che fanno registrare presenze record. Una parte del concerto di Milano viene pubblicata tra l'altro anche nell'album Vasco Live del 10 luglio del 90 a San Siro, e Vasco così diventa il primo artista italiano a raccogliere un numero di fan così ampio, riuscendo dove allora solo le stelle straniere si erano avvicinate. Diventato padre per la seconda volta, il cantante fa uscire l'album Gli Spari Sopra, siamo al 1993, col quale vincerà ben 10 dischi di platino. L'album fu preceduto dal singolo Gli Spari Sopra, mini CD che contiene, oltre ad alcune versioni alternative dell'uomo che hai qui di fronte e dell'USA che conosciamo bene con riferimenti alle allora ragazze di Non è la Rai, anche l'inedito Se è vero o no, canzone che non fu inserita nell'album Gli Spari Sopra, ebbe un gran successo. Nel 1994 regala infine agli iscritti del suo fan club ufficiale un CD contenente l'inedita Senza Parole. Ascoltiamo Liberi Liberi. Ci fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato, e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato. Se fosse stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui, perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Che eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. liberi, liberi siamo, poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è. Abbiamo ascoltato Liberi Liberi di Vasco Rossi su Radio One all'interno di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio con Filippo Brancato. Arriviamo ripercorrendo la storia di Vasco al 1996, anno in cui pubblica l'album Nessun Pericolo per Te, contenente una canzone, Gli Angeli, dedicata all'amico Maurizio Lolli, morto di cancro ai polmoni, e il cui video, tra l'altro una produzione colossale di 600 milioni di lire, viene diretto da Roman Polanski. Il video viene messo a disposizione su internet, un evento abbastanza inusuale per quegli anni, così che Vasco diventa un precursore del tempo e dei nuovi sistemi tecnologici che avanzano. Il 1998 è un anno storico per la carriera di Vasco Rossi. Il disco non porta, infatti, come era abitudine, una nuova tournée, ma viene deciso di tenere un unico concerto, accettando la proposta di essere la guest star della prima edizione dell'Heineken Jamming Festival a Imola, e il rock di Zucca viene universalmente riconosciuto come la star della musica italiana contemporanea. A pochi giorni dalla partenza del tour viene a mancare per overdose purtroppo anche l'inseparabile compagno di avventure Massimo Riva, chitarrista della band e autore, coautore di tante musiche e testi, uno su tutti, Vivere. Ascoltiamo, dedicata a lui, Gli Angeli. Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie. Thank you. Arriviamo al 1999, esce il singolo La fine del millennio, i cui proventi vengono devoluti all'associazione Onlus per il recupero dei tossicodipendenti fondata dall'amico e dai parenti di Massimo Riva. Nel 2001 arriva l'anno di Stupido Hotel e anche del terzo Festival Bar vinto con la canzone Ti prendo e ti porto via, fantastica hit dell'estate di quel tempo. Nel 2004 l'album Buoni o Cattivi, registrato tra Bologna e Los Angeles, fa registrare il record di vendite di quell'anno e successivamente viene venduto anche negli Stati Uniti. All'album seguirà il Buoni o Cattivi Tour, articolatosi in due stadi e che tocca gran parte dei sei italiani, bissandoli dove richiesto e facendo registrare il tutto esaurito. Il 12 maggio 2005 lo IULM di Milano conferisce a Rossi la laurea honoris causa in scienze della comunicazione. Un pezzo di carta, dice lui, che esibisce con emozione e fierezza, dedicandolo alla madre e ai suoi studi universitari a suo tempo interrotti. Sempre nel 2005 ritorna a Sanremo come ospite per la serata finale, in segno di riconoscenza al festival che gli aveva offerto una vetrina importante nonostante i magri piazzamenti allora riconosciuti, quando la sua carriera era ancora agli albori. Questa volta il pubblico lo accoglie con entusiasmo e Vasco risponde cantando l'introduzione di Vita Spericolata, introdotto da Maurizio Soldieri alla chitarra, e Hit del 2004 e anche Un Senso. Dopo la performance pronuncia poche parole contro la legge antifumo, legge del 3/2003, varata dal ministro Sirchia, ed esce di scena sottraendosi all'abituale intervista del conduttore Paolo Bonolis ai suoi ospiti. Ascoltiamo Ti prendo e ti porto via. Sai, ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto, neanche per noi. Chiedi amore così come a chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai, quello che vuoi. Intorno se c'è una vestita uguale, è che sedurre per te è più importante che respirare. Starti vicino sì, a volte capita di sentirsi un po' in forse, ma tu li baci tutti e lasci tutto com'è. Ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu te li baci tutti e lasci tutto com'è. Arriviamo al 17 dicembre del 2005, Vasco torna a Zocca, la sua città natale, dove gli amici d'infanzia e di tutta la comunità hanno organizzato un tributo in suo onore. Per l'occasione viene allestita anche una mostra fotografica. Il gennaio 2007, l'anno in cui esce il singolo Basta Poco, per volontà del cantautore non è venduto in alcun negozio, può essere soltanto ascoltato in tramite radio oppure scaricato dal web o dal portale di una nota azienda telefonica. Il nuovo singolo fa registrare il record italiano di download legali, oltre 100.000 a distanza di 2 giorni dall'uscita del brano. Il 28 marzo 2008 esce Il mondo che vorrei, 21esimo album di Vasco Rossi, 17esimo in studio. Nel maggio del 2008 è stato nominato cittadino onorario della città di Genova dal sindaco Marta Vincenzi, in quanto ha omaggiato i genovesi regalando loro quella che è stata la data zero del Vasco 8 Live in Concert. Inoltre ha ricevuto a titolo onorifico la tessera che dà libero accesso agli oratori della città di Genova. Ascoltiamo Il mondo che vorrei. Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe che fare. Ed è come quello che non si direbbe che direi. Quando dico che non è così il mondo che vorrei. Non si può sorvolare le montagne. Non puoi andare dove vorresti andare. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più. Del 2008 prosegue il tour iniziato a Genova negli stadi delle principali città italiane. In sole 24 ore dall'apertura delle prevendite vennero venduti ben 120.000 biglietti, costringendo gli organizzatori ad aggiungere ulteriori date per le tappe di Milano, Roma, Ancona e Salerno. Vasco si esibì anche all'Heineken Jamming Festival di Mestre il 21 giugno del 2008. Sommando la partecipazione ai concerti allo Stadio Olimpico di Roma e di quello di Milano, sono più di 300.000 gli spettatori che assistono ai concerti di Vasco. La prima apparizione live del 2009 è stata in occasione della ventennale del concerto del 1° maggio a Roma. A 10 anni di distanza dalla prima partecipazione. Seguirà poi una tournée indoor con inizio il 6 ottobre in giro per l'Italia e l'Europa, a 13 anni di distanza dall'ultimo tour chiuso datato 1996, il Nessun Pericolo per Te Tour. Ascoltiamo Nessun Pericolo per Te. Non voglio più sentirmi dire mai, my problem is fucking my life. Dice cosa e come dovrei fare. Se mi piace con lei, beh, subito qualcuno dice costa troppo. Time, datemi time. Last time, again. Saperlo, voglio sesso da te. Di questa puntata di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio, Vasco Rossi. Ripercorriamo la sua biografia e arriviamo al 27 novembre 2009. Esce l'album Tracks 2, inediti e rarità. Contenente 3 inediti, poco più di una settimana l'album riesce a ottenere 4 dischi di platino e ad oggi è un disco di diamante. Il 29 marzo 2011 esce Vivere o Niente, 16° album in studio. Il primo singolo estratto, anticipato il 7 febbraio, giorno tra l'altro del suo 59° compleanno, è intitolato È già. Il disco balza subito in testa alle classifiche di vendita. Arriviamo al 5 giugno 2011, prende il via dallo stadio del concerto di Ancona il tour Vasco Livecom 011, il tour che prevede un concerto anche all'Heineken Jamming Festival di Mestre, è il primo in cui l'artista realizza 4 concerti consecutivi allo stadio di San Siro. Durante l'ultima data a Milano il rocker è obbligato ad accorciare la scaletta, iniziando con un evidente ritardo per via di un forte mal di schiena che, nonostante le cure necessarie, non accennava a passare. Il 26 giugno del 2011, in un'intervista a Vincenzo Mollica per il TG1, parlando del suo futuro, ha dichiarato che modificherà il suo modo di rapportarsi con il pubblico. In particolare ha affermato: è felicemente conclusa la mia straordinaria attività di rockstar, che questa è l'ultima tournée di questo tipo. In questo periodo viene anche pubblicato il libro Vasco Complete Canzoniere, è una fantastica opera da leggere. Il 18 luglio 2011 decide di farsi ricoverare in una clinica privata nei pressi di Bologna per verificare la natura del mal di schiena e dagli esami si scopre che a causa del dolore deriva una del costola fratturata. Inoltre approfitta anche della permanenza nella clinica per fare un check-up completo. Il 22 agosto del 2011, dopo questo check-up, i medici che lo seguono lo obbligano ad un riposo assoluto di almeno 60 giorni. Questa cosa gli ha provocato ovviamente l'allungamento delle ultime 4 date del Vasco Livecom 011. Al cantante viene diagnosticata un'infezione da stafilococco aureo che gli ha causato anche un'osteomelite al torace, un'endocardite e in seguito anche una polmonite. Insomma, non era per niente messo bene. Ascoltiamo È già. È già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'aria, sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia. Poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà? Col cuore che batte più forte, la lotta da passare. Al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Abbiamo ascoltato la fantastica Eggia ed arriviamo al 9 dicembre 2011, solo ed esclusivamente su iTunes è uscita una speciale versione dell'album Vivere o Niente, contenente oltre all'album in studio anche un CD con 13 brani registrati durante una tappa del Livecom 011. Il 31 marzo del 2012 è stato pubblicato l'album L'altra metà del cielo, contenente alcune tra le più famose canzoni di Rossi dedicate alle donne. Arriviamo poi al 14 settembre dello stesso anno, viene di nuovo ricoverato in una clinica per problemi respiratori. E il 27 novembre del 2012 esce poi l'album dal vivo Livecom, The Complete Edition, che debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI Album. In due settimane ottiene il disco d'oro e a dicembre viene certificato disco di platino per le oltre 60.000 copie vendute. È il 21 gennaio 2013 l'anno in cui esce il singolo L'uomo più semplice, che arriva al primo posto in classifica. Il 9 giugno 2013 prende anche il via dallo Stadio Olimpico di Torino il Vasco Tour Livecom 013, che prevede 4 concerti nel capoluogo piemontese e 3 allo Stadio Renato Dalla di Bologna. Il tour segna il ritorno sul palco di Vasco, vede la partecipazione di oltre 267.000 spettatori. Ascoltiamo L'uomo più semplice. Radio One. Semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché stasera. Sono l'uomo di primavera. Facciamo bene stare insieme stasera. Facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché è l'occasione che c'è l'atmosfera. Arriviamo adesso al 15 ottobre 2013. Esce il singolo Cambiamenti, che guadagna immediatamente la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Successivamente vengono comunicate le tasche del Livecom 014 ed il 14 marzo esce il singolo Dannate Nuvole, che anticipa l'album in uscita a novembre. Ad aprile Vasco firma un accordo con la casa discografica Universal Records, che prevede la pubblicazione dei successivi tre album. Il 29 maggio 2014 riceve il riconoscimento di cittadino onorario della Puglia Creativa dal presidente della regione Nichi Vendola. Il 25 giugno 2014 parte il Vasco Livecom 014. In occasione della preparazione dello show allo Stadio Olimpico di Roma, annuncia di voler dare alla musica una svolta metal, affermando che a forza di fare rock duro è inevitabile finire nel metal. È un'evoluzione naturale, dice Vasco Rossi. Questo tour raggiunge la cifra di circa 400.000 spettatori per un incasso certificato di oltre 26 milioni di dollari, entrando al secondo posto nella classifica mondiale Hot Tours 2014 di Billboard, secondo dopo ai Rolling Stones. Il successivo album di inediti intitolato Sono Innocente esce all'inizio del novembre 2014. Il disco segna un riavvicinamento con alcuni vecchi collaboratori. A seguito dell'uscita del nuovo album il 7 giugno 2015, parte dallo San Nicola, dallo stadio San Nicola di Bari, il Vasco Livecom 015, in cui Vasco torna a esibirsi negli stadi più importanti d'Italia per un totale di 14 date. Al fine del tour Vasco torna in studio per registrare il ritornello del brano Tutti contro tutti, contenuto in Miss Nostalgia, nuovo album degli Stadio. Il brano in questione segna di fatto il ritorno di Vasco Rossi al duetto con Gaetano Curreri, dopo il brano La faccia delle donne pubblicato nei primi anni 80. Lo ascoltiamo, Tutti contro tutti. E non mi fido di te, che così bene chiacchieri, perché hai già dimostrato che non ti fai scrupoli. E non mi fido di me, perché per difendermi ho dovuto imparare anche ad assomigliarti. È una guerra ogni giorno, ogni istante che ti volti, qualcuno cerca di fotterti. Non ci sono più regole, la parola d'ordine è tutti contro tutti, belli contro brutti, donne contro uomini, ricchi contro poveri. Non c'è più vergogna, hai le spalle al muro, non vince più ma il più furbo di sicuro. Non fidarti di me, non so quello che credi, io parlo male di te quando tu non mi vedi. Con le tue strategie ottieni quello che vuoi, ma con me non funziona, lo so che gioco fai. È una guerra ogni giorno, ogni istante che ti volti, qualcuno cerca di fotterti. Non ci sono più regole, la parola d'ordine è tutti contro tutti, tutti contro tutti, belli contro brutti, brutti, alti contro bassi, bassi, bassi, bassi, magri contro grassi, grassi, grassi. Non c'è più vergogna, hai le spalle al muro, non vince più bravo ma il più furbo di sicuro. Bisognerebbe scoppiasse una rivoluzione, o che almeno tornasse la buona educazione. periodo di pausa, torna sul palco il Vasco Livecom 016. Gli organizzatori del Livecom decidono di compensare la mancanza di Roma tra le date del tour del 2015, fissandone una continuazione con due date allo Stadio Olimpico previste per i giorni 22 e 23 giugno, poi portate addirittura a 4 con l'aggiunta del 26 e del 27 giugno. Questa serie di concerti rappresenta un nuovo record di date consecutive nello Stadio Romano, dove lui stesso arrivò a quota 3 concerti nel 2014. Per le 4 date sono stati venduti complessivamente 205.000 biglietti. Durante la promozione dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma, Vasco annuncia il concerto evento Modena Park 2017, che si è tenuto al Parco Enzo Ferrari di Modena il 1 luglio del 2017 per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Con oltre 220.000 biglietti venduti, il Modena Park 2017, Vasco Rossi ottiene il record mondiale di spettatori paganti per un singolo concerto, superando un primato appartenente, pensate, agli Ha-Ha, che nel 1991 a Rio riunirono 198.000 paganti. Questo concerto sarà anche ricordato per gli altri record: dagli spettatori TV, poco più di 5 milioni, e nei cinema, oltre 50.000 biglietti emessi per seguire l'evento nelle sale, al record dei fan che, pur di essere in prima fila, si sono accampati, pensate, al Modena Park già un mese prima dell'evento. Ascoltiamo Cambiamenti. Rock Revolution Story. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Ripercorrendo la storia di Vasco Rossi, arriviamo all'autunno 2017. Viene diffusa in radio come singolo la versione live di Colpa d'Alfredo, suonata al Modena Park 2017 nello stesso anno. L'8 dicembre poi esce il cofanetto Vasco Modena Park, registrazione del fantastico concerto del 1 luglio a Modena, ed ancora vengono comunicate le date del nuovo Vasco Non Stop Live 2018. Durante un incontro con il fan club a settembre, Vasco annuncia il Vasco Non Stop Live 2019, che comprende 6 date allo stadio San Siro di Milano, nuovo record tra l'altro di date consecutive nello stadio milanese, e 2 date alla Fiera di Cagliari. Inoltre anticipa la notizia di un nuovo singolo in uscita a novembre con videoclip diretto dal regista Pepsi Romanov. In autunno ritorna in studio di registrazione insieme al produttore Celso Valli, a Nicola Venieri e all'amico Gaetano Curreri per ultimare il singolo intitolato La Verità, pubblicato il 16 novembre. Arriviamo al 25 ottobre 2019, pubblica il singolo Se ti potessi dire, che anticipa l'album Live Non Stop, che documenta il suo tour del 2019. Ascoltiamo adesso di Vasco Rossi La Verità. Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse. La verità è fatale, la verità è che tutti possono sbagliare. Devi sapere da che parte stare. La verità fa male. Vasco è considerato uno dei più grandi rocker italiani. Ha pubblicato 33 album dall'inizio della sua carriera nel 1977, di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a 2 EP e un'opera audiovisiva e complessivamente 181 canzoni, oltre a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi dal 1977 al 2019 ed è da oltre 30 anni uno degli artisti italiani di maggior successo. È inoltre il primo artista italiano per numero di copie vendute del decennio che va dal 2010 al 2019. In special modo con gli album Vivere o Niente e Sono Innocente, il rocker si è conquistato il primo posto nella classifica degli album più venduti, rispettivamente nel 2011 e nel 2014. Nella sua carriera si è esibito in circa 800 concerti e, come detto, detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, quello famoso di Modena del 2017, con 225.173 biglietti venduti. Il suo lavoro gli ha fruttato numerosi riconoscimenti, tra cui la targa Tenco per il miglior album del 1998 con Canzoni per me, il premio Lunezia in qualità di poeta del rock nel 1999, il nastro d'argento alla migliore canzone originale per Un senso e la laurea honoris causa in scienze della comunicazione di Ulm nel 2005, oltre al premio Fernanda Pivano nel 2006. Gli viene riconosciuto il merito di essere stato il protagonista di una vera rivoluzione musicale, contraddistinta inoltre dai significativi connotati sociali e relazionali, stravolgendo il panorama musicale italiano con l'introduzione di uno stile espressivo unico e insuperato che ha influenzato anche il linguaggio parlato. Abbiamo ascoltato in questa puntata di Rock Revolution Story il grande Vasco Rossi. Vi ringrazio per l'ascolto e rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana per Rock Revolution Story su Radio One. Grazie a tutti, ciao. Nei sottoborghi dentro la città un suono vibra, arriva fino a Radio One.